L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, 6 luglio, era il 188 giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:41 e tramontava alle 20:47. La luna, calante, sorgeva alle 22:09 e discendeva alle 6:39. Potevate nell'orto oppure in vaso seminare o innestare cipolle, carote, aglio, rape. Insomma, è un giorno delle radici. L'altro ieri avvenne. Nel 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. 1885 Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino per la rabbia. 1919 il dirigibile britannico Air 34 atterra a New York completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico. 1939, Olocausto, le ultime imprese ebraiche in Germania vengono chiuse. 1957, Althea Gibson, atleta afroamericana, vince il torneo di Wimbledon. 6 luglio 1964, prima cinematografica di A Hard Day Nights, primo film di Beatles. 1966, il Malawi diventa repubblica e si libera dal Regno Unito. 1967, le forze nigeriane invadono il Biafra. 1976, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Soyuz 21 con due astronauti a bordo. 2004, la sonda Cassini-Eugene entra nell'orbita di Titanio. 2011, vengono condannati i responsabili ancora in vita delle stragi nazifascisti di Vallucciole, Monicchio e Cervarolo. Moriva a 59 anni il 6 luglio del 1533, malato di enterite a Ferrara, Ludovico Ariosto. Ci raccontano di lui le ragazze dell'almanacco. Approfondimento dell'almanacco dell'altro ieri a cura di Banana Naio e Maria Elisa di Rivombrosa. Il 6 luglio del 1533, a causa di un intestino un po' birichino, Ludovico Ariosto muore a Ferrara. Sappiamo bene che citare Ariosto risveglia in voi un senso di confusione e nausea legata al dedalo inestricabile delle storie che narra l'Orlando Furioso. Ma io e Banana Naio quest'oggi abbiamo voluto cogliere questa sfida, esorcizzare quest'incubo adolescenziale e cavalcare l'ippogrifo che ci porterà sulla Luna per ritrovare il senno di Orlando. Dunque, la vita di Ludovico è decisamente meno avventurosa di quella dei suoi eroi. Era primo figlio di 10 fratelli e per volontà del padre intraprende precocemente la carriera giuridica. Ma, ahimè, presto si accorge che non è proprio quello che vuole fare e allora molla tutto per dedicarsi agli studi umanistici. E quando va all'Università di Ferrara, Ludovico si dedica con grande devozione allo studio della filosofia neoplatonica. Nella sua vita non c'è spazio per freddi calcolatori legiferanti, ma piuttosto per personaggi come Pietro Bembo, che con la sua passione lo introduce a Petrarca e alla letteratura epico-cavalleresca. Se dico la chanson de Roland, vi viene in mente qualcosa? E lì sentite i crampetti allo stomaco che sentivate a scuola? Ecco, questo è il testo padre di questo filone letterario definito epico-cavalleresco. Alla morte del padre, però, il nostro Ludovico deve fronteggiare una serie di problemi. Si incolla tutta la famiglia in quanto primogenito e per tirare avanti la baracca segue l'esempio paterno e si mette le dirette dipendenze della casata d'Este. Quindi diventa un uomo di corte a tutti gli effetti, sotto il cardinale Ippolito d'Este, un altro personaggino piuttosto controverso che lo tratta un po' come uno schiavetto perché in fondo Ippolito ha troppo da fare. Tra le feste, le amanti a cui deve stare dietro come Madame d'Etampes e Diana de Poitiers, gli rimane poco tempo effettivamente per fare il cardinale. Ma per fortuna che un poco di tempo Ippolito gli è rimasto per costruire la sua umile dimora alle porte di Roma. Quel piccolo tesoro di sfarzo e fontane che è Villa d'Este. Diciamo che Ludovico è un po' insofferente al seguito di Ippolito e quando il cardinale gli propone di seguirlo in Ungheria, lui gli fa una grossa vernacchia e con un commiato da vero poeta declina l'offerta. A questo punto si mette alle dipendenze dell'altro figlio della famiglia d'Este, Alfonso, il quale gli assegna il governo della Garfagnana, più o meno nell'attuale provincia di Lucca. Ed è qui che finalmente riesce a portare a termine il glorioso Orlando Furioso. Ludovico riscrive l'Orlando Furioso per ben 3 volte. E se le prime 2 edizioni sono pensate piuttosto per la corte e per un pubblico più locale, la terza viene destinata a un pubblico universale. E infatti perde tutte le inflessioni dialettarie padane e la lingua usata a questo punto è il fiorentino del 300. Quindi dopo anni di dittatura della terzina dantesca A, B, A, B, C, B, C, D, C, D e D... No, tranquilli, Maria Elisa di Rivombrosa non sta delirando, sono gli schemi di ritmo delle rime. Beh, la scrittura letteraria si sposta inesorabilmente verso l'ottava AB, AB, AB, CC. Ma arriviamo al dunque, l'Orlando Furioso. La trama del poema è articolata a dir poco, anche perché è usata la tecnica dell'entrelacement, da noi ridefinita tecnica complicazione affari semplici, in cui sono diverse narrazioni che si alternano e si intrecciano una all'altra. Bene, ecco, partiamo dall'inizio. Il poema si apre con uno scenario piuttosto caotico. Tutti corrono! Anzi, tutti corrono da qualche parte, inseguono qualcuno, fuggono da qualcun altro. Orlando segue Angelica, Angelica scappa da Orlando, ma anche dai guerrieri musulmani che vogliono averla, come Sagripante. Rinaldo segue il suo cavallo che è scappato, in realtà per condurlo da Angelica, e Bradamante cerca disperatamente Ruggero. E per non disattendere il sessista immaginario epico, ovviamente i maschi combattono e c'è la bella di turno che fa perdere la testa a tutti. Angelica è il suo nome. Lei è la bellissima figlia del re del Catai, regno della Cina settentrionale, e viene inviata nel campo dei cristiani di Carlo Magno per distogliere dalla guerra i cavalieri. Ma in che senso? Nel senso che Angelica è una principessa dalle fattezze celestiali, ma proprio bella per di bella. Oddio, io me la immagino un po' come Brigitte Bardot nelle Parapluie di Cherbourg. Ma quando mai? Ma viene dal Catai, sarà una morona, io penso più a Lucy Liu. Comunque, mora o bionda, lei ha la capacità di far svalvolare maschi di ogni religione. Angelica in fuga dall'accampamento cristiano. I più valorosi paladini cristiani sotto Carlo Magno e i più valorosi paladini musulmani sotto Agramante sono innamorati di lei e abbandonano la guerra per cercarla. Angelica però se n'è già fuggita con Medoro, il più sfigato dei saraceni, giusto perché aveva bevuto un filtro amoroso. Orlando, venuto a conoscenza della notizia, impazzisce! Si spoglia nudo, fugge per i boschi della Francia e della Spagna, tagliando alberi e distruggendo tutto quello che trova sul suo cammino. Ma meno male che Astolfo, compagno di Orlando, si reca sulla luna in sella all'ippogrifo per recuperarle il senno di Orlando. Lo riporta in un'ampolla sulla terra, lo fa adorare al nostro paladino che rinsavisce e finalmente vince la guerra contro i saraceni. E nel frattempo Ruggero, idolo dei saraceni, insegue e ama la cristiana Bradamante e nonostante tutte le vicissitudini e i continui ostacoli che si mettono fra loro, riescono a coronare il loro sogno d'amore. E finalmente si sposano dopo la conversione al cristianesimo di Ruggero e da questo, come dire, mitico connubio, trae le sue origini mitiche la casata degli Este. Ed è così che si conclude l'Orlando Furioso. E se per caso vi avessimo messo un po' di curiosità nel leggere questa avventura epico-fantascientifica, vi auguriamo un buon viaggio nei meandri di queste labirintiche avventure. E se mai doveste perdere il senno, per amore, sappiate che è la luna che lo custodisce e che lì potrete ritrovarlo. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a gioco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non han mai loco. I vani desideri sono tanti, che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma qua giù perdesti mai, lassù, salendo, ritrovar potrai. Ci sono vite che scorrono rapide, ma dense, come il flusso di un fiume ingrossato dalla piena. E così è stato per Dick Tiger, il pugile africano che un tumore al fegato uccise appena 42 anni d'età. Era nato il 14 agosto 1929 in un piccolo villaggio del Biafra. figlio di un umile pastore, aveva lavorato a lungo come scatolatore per l'inglese che all'epoca dominavano la Nigeria. Mentre scopriva il suo talento per il pugilato, fu la boxe a fargli lasciare la terra natia per raggiungere il Regno Unito, dove combatté i primi incontri da professionista. Fisicamente solidissimo e dotato di una grande tempra, Richard Dieter, questo il suo nome tribale, piegò numerosi avversari guadagnandosi i primi importanti tempi. Ma il denaro non lo cambiò, nemmeno il trasferimento negli Stati Uniti, che segnò l'inizio della sua scalata verso il successo, sembrò modificare il carattere umile e genuino di questo ragazzo. Le ricche borse guadagnate nei numerosi match combattuti in carriera finivano infatti in gran parte nella sua terra natia. Richard, che per il suo stile di combattimento e la provenienza era stato nominato Dick Tiger, infatti sostenne ciecamente la causa del Biafra. La regione aveva dichiarato l'indipendenza del neonato stato nigeriano il 6 luglio del 1967, dando inizio a una sanguinosissima guerra civile che durerà 3 anni e terminerà il 15 gennaio del 1970 con la vittoria dell'esercito di Lagos. Il governo centrale, per piegare gli insorti, soffiò sul fuoco della carestia, provocando oltre 1 milione di vittime. Dick più volte raggiunse segretamente la sua terra, portando denaro e provviste, mentre restituì la medaglia ricevuta dalla regina Elisabetta in segno di protesta contro il sostegno britannico alla Nigeria nella guerra civile. Questo era l'uomo che aveva sconfitto pugili del calibro di Rabben Carter, José Torres, Joy Giardello, Nino Benvenuti e conquistò il titolo di campione dei pesi medi e quello dei pesi massimi. Qui finisce l'almanacco, un saluto a tutte e tutti e soprattutto a un altro pugile, un pugile che conosciamo bene. Ciao Emilio!